Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio da Inter Roma di stasera, con l'Inter favorita nettamente per via dell'1-0 dell'andata in trasferta all'Olimpico, uscirà la seconda finalista di Coppa Italia. La prima è meritatamente il Palermo, visto che il Milan ha fatto molto nel finale della partita di ritorno ieri sera a Palermo, quando già l'esito era praticamente compromesso, ma aveva fatto oggettivamente troppo poco prima, quando invece la situazione di punteggio era ancora in bilico. Su questo storico approdo a una finale di Coppa Italia, la terza nella sua storia per il Palermo, ecco il commento di un felicissimo Delio Rossi. Sì, è giusto, perché sta squadra si è sacrificata tanto, ha lottato tanto e mi ha seguito, e se un allenatore non ha un gruppo di ragazzi che lo segue non riesce a ottenere risultati, quindi merito loro, perché al di là delle qualità tecniche ci sono delle qualità grandissime morali da parte di questa squadra. Io l'ho sempre detto, questa squadra è una squadra seria, anche stasera l'ha dimostrato con una squadra più forte di lei, perché il Milan è più forte di noi, però ci tenevamo tanto a regalare questa finale alla nostra gente. Dall'allegria di Delio Rossi, meritata, ripeto, ai toni un pochino diversi di Allegri, che per carità si è appena goduto il primo scudetto della sua vita e quindi non si straccerà le vesti per una semifinale persa in Coppa Italia, ma comunque qualche rimpianto indubbiamente rimane, perché la coppiata sarebbe stata di grande prestigio, e perché anche il gran finale di Ibrahimovic, qualche perplessità sul suo mancato utilizzo iniziale indubbiamente lo ha sollevato. Sentiamo Allegri. Purtroppo era uscito malconcio dalla partita di sabato, ho preferito non rischiarlo all'inizio, così come Boateng. Credo che però alla fine la partita, fino al momento del gol su angolo, abbiamo rischiato poco e niente, eccetto due tiri. E per noi era importante mantenere la partita in equilibrio, sapendo che poi con i cambi potevamo portarla a casa. E purtroppo abbiamo preso questo gol, siamo andati sotto, abbiamo avuto anche un pochino di sfortuna sul doppio palo di Ibrahimovic, ci mancava ancora un quarto d'ora. Però ragazzi, non ho da rimproverare assolutamente niente. Dopo degli Rossi e Allegri, e in attesa poi dei vostri commenti in diretta, come sempre su questo, ma su tanti altri argomenti, ne abbiamo ereditati in particolare da ieri, no? Io credo che sia il momento, dopo averlo rinviato ieri per l'appunto per ragioni di spazio, sia ora di onorare l'appuntamento con il calcio internazionale e con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Anche perché oggi è più attuale, in quanto il check-up sui campionati stranieri, che abitualmente è il pezzo forte dell'appuntamento del martedì, quando non ci sono coppe, è aggiornato dagli esiti, dai risultati che si sono avuti nel frattempo in Inghilterra, ma soprattutto in Spagna. La prima cosa che mi viene in mente è che dopo la sconfitta, dopo l'eliminazione dalla semifinale di Coppa Campioni del Real Madrid, il Real ha trovato il passo giusto, ha segnato 11 gol in totale a Siviglia e ieri sera con il Malaga, 7 di questi 11 li ha segnati Cristiano Ronaldo, ma insomma tutto questo è arrivato un tantinello tardi. Sì, è arrivato un tantinello tardi, ma può dimostrare due cose. Intanto che con tutta probabilità Cristiano Ronaldo andrebbe scatenato e soprattutto rifornito, e temo che siano ulteriori munizioni nei confronti dei critici dell'allenatore, di José Mourinho, perché questa è una squadra che adesso sta giocando quasi da Barcellona, perché comunque il Barcellona spesso è stato il Barcellona grazie anche alle grandi prestazioni individuali di Leo Messi, all'interno di una coralità decisamente migliore, questo va detto. Però insomma, che il Real Madrid stia dando 5-6 gol a tutti, lo ha fatto anche ieri sera poi con il Getafe, anche senza farne 6, ma con una tripletta di Ronaldo, è la dimostrazione che questa squadra ha un potenziale che è mostruoso, e quindi tarparlo con una tattica eminentemente difensiva forse non è stata una buona idea. Però tanto su questo argomento potremmo stare a parlare tutta la vita e non ci sarà mai l'unanimità. Restano due fatti. Il primo è che Ronaldo ormai è vicinissimo alla vittoria del titolo di Pichichi e può anche fare il record che appartiene anche a un grande come è stato Hugo Sanchez. E la seconda cosa mi pare di poter dire ormai acclarata che il campionato spagnolo abbia un problema, cioè il campionato spagnolo ha un problema perché se con adesso il Real Madrid ha 86 punti, ragionevolmente supererà quota 90, se con 90 punti tu non vinci il campionato e vinceresti qualsiasi altro campionato europeo e la terza arriva a 20 e passa punti dalla prima, io credo che la Liga spagnola debba porsi il problema, che è un problema che non ha una soluzione, intendiamoci, non è che debbano pensarci i politici federali o comunque i club, cioè nel senso che se il Real e il Barcellona sono così più forti, questo è un dato di fatto, però visto che in passato a turno il Deportivo La Coruña, il Valencia, il Villarreal e altre squadre come Siviglia e quant'altre erano riuscite bene o male a dar qualche problema, ora a me ha veramente imbarazzato la vittoria della scorsa settimana del Real Madrid, che ha vinto 6-2 in trasferta sul campo del Siviglia, certo. Esatto, sul campo di una squadra è importante, non sul campo dell'ultima della fine. Eh no, certo, giustissimo. Tu hai citato due fatti, in effetti affrontarli, tu hai detto bene, una soluzione non è difficile, non è facile, anzi sarà molto difficile trovarla, però già un problema affrontarlo è sempre il piccolo inizio di una soluzione. Il terzo aspetto del campionato spagnolo è ormai una formalità, nel senso che stasera in trasferta a Valencia sul campo del Getafe il Barcellona con un punto si laurea campione, quindi è ragionevole pensare che stasera sarà festa per il Barça, anche se in ogni caso gli restano due partite successive sabato in casa e certamente non sarà quello il problema. Siamo vicini al primo intervallo e allora prima di affrontare altri argomenti con Fabio Tavelli volevo darvi conto di questa eccellente e durissima risposta di Petrucci, presidente del CONI, al presidente laziale Lotito. Stamane Lotito, arrivando in Lega, ha definito abnorme il provvedimento dell'Alta Corte di Giustizia del CONI che ha accolto il ricorso delle cinque grandi contro la delibera che era stata favorevole invece in prima istanza alle altre 15. All'aggettivo abnorme così ha risposto Gianni Petrucci: oggi nello sport di abnorme c'è solo il debito di Lotito verso il CONI. Questa mi sembra non esattamente una cosa in punta di se è in punta di fioretto, però è di quelle fiorettate che fanno male. Intervallo, traffico. Un sms di un ascoltatore torna ad introdurre un argomento che riaffronteremo più avanti. È firmato Marco e dice: se tra gli ascoltatori c'è qualcuno che vuole una maglia di Gattuso col centenario del Milan autografata e con dedica, dopo le scenate di quest'anno la metto volentieri in vendita. Si chiama Marco, eventualmente credo che il centralino possa rintracciare forse un numero di telefono. L'altro messaggio firmato Marco Manzardo e dice: un saluto a Fabio Tavelli che nonostante sia a riposo sia per Sky che per Facebook non manca l'appuntamento con A Tempo di Sport. E te lo giro volentieri, Fabio. Grazie. Sì, mi sento un po' controllato, ma molto ti bene. Senti un po' controllato. Io potrei anche aggiungere che siamo in una zona chiantigiana, no? Mi pare. Esatto. Esatto. Così ti controlliamo. Facciamo anche un po' di pubblicità se vogliamo, perché è un paese meraviglioso. Si chiama San Gusmé, scoperto stamattina. Tra Siena e Arezzo, molto molto bello. Non faccio fatica a crederlo. Senti, ci spostiamo in Inghilterra, ti leggo qualche numero tirato fuori come sempre da Franco Piantanida e tu mi dai le tue considerazioni. Allora, chi si era dimenticato di Dalglish, neo-allenatore del Liverpool, deve prendere buona nota che da quando Dalglish è tornato al Liverpool, il Liverpool ha fatto più punti dello United e due soltanto in meno del Chelsea, che nel frattempo ha fatto questa rimonta strepitosa, poi fallita nell'atto finale domenica scorsa, ma soprattutto si era dimenticato che questo 60enne ex grande gloria del Liverpool aveva vinto gli ultimi campionati della storia del Liverpool per l'appunto 86, 88, 90 e non allenava dalla bellezza di 11 anni, quindi è una specie di caso Dan Peterson. Sì, è una specie di caso Dan Peterson con qualche differenza, nel senso che nel campionato italiano l'Armani Jeans ben difficilmente avrebbe potuto, cioè comunque più o meno sta nella stessa posizione che aveva con Piero Bucchi, e il campionato italiano a Siena di basket che è irraggiungibile. e Cantù e Milano che si giocano alla seconda posizione. Per arrivare alla terza, che è Avellino, o alla quarta, bisogna scendere un po'. Ma in ogni caso, questo può anche voler dire due cose. Beh, intanto io facevo parte di quelli che non pensavano di trovare il Liverpool così in alto in classifica, e quindi mi prendo le mie responsabilità per l'errore. Onestamente era un mio vaticinio a settembre. In realtà poi il mercato è cambiato, però è chiaro che non puoi dar via Fernando Torres e pensare di rinforzarti. Effettivamente invece è successo questo, perché anche se soprattutto Carroll ha avuto qualche problema, l'arrivo di Suarez e tutta una serie di miglioramenti da parte dei giocatori, tipo Dirk Kuyt, ma non solo, ma anche con infortuni come quello di Carragher, che l'hanno tolto di mezzo da un po', a me portano a pensare che in certe situazioni anche la figura dell'allenatore, non voglio dire che sia una figura superflua, ma sia una figura che vada un po' dimensionata, non dico ridimensionata, ma dimensionata. Dimensionata, nel senso che Dalglish è entrato con una grande personalità che gli derivava dal fatto di essere una vera e autentica gloria, riconosciuta e amata in maniera incondizionata da tutta Liverpool. Credo che non abbia voluto fare delle rivoluzioni. Tutti abbiamo pensato che in realtà fosse un pontiere verso un nuovo allenatore per l'anno prossimo, e lui effettivamente facendo la gestione del buon padre di famiglia, credo che abbia dato comunque la responsabilità ai giocatori di quello che facevano, e facendo così li ha forse anche liberati di un fardello e li ha lasciati esprimersi nella maniera più consona. Poi un Liverpool normale, secondo me, arriva sempre quinto o sesto nella Premier League, perché comunque il valore singolo dei protagonisti è importante, ci sono dei giocatori importanti. In una stagione nella quale comunque Gerrard ha perso molte partite per infortunio, credo che sia un buon segnale, nel senso che ci sono anche allenatori che non hanno bisogno di fare gli alchimisti, di fare gli stregoni o apprendisti tali, e possono semplicemente trovare una formula normale, cioè far giocare i giocatori come sanno e poi affidarsi a loro. Certo. Io credo sia una buona notizia questa. Credo proprio anch'io. Sì, c'è un messaggio firmato Davide alla Inata che domanda: Barcellona e Real nel campionato italiano in che posizione classifica arriverebbero? Beh, insomma, io dico primo o secondo, o secondo e primo, ma non vedo, sì, no, sì. Non vedo la curiosità. No, non credo farebbero, Gigi, perdoni, non credo che farebbero 100 punti, ma può no, fare Barcellona. Certo. Vabbè, però arriva primo o secondo, o secondo e primo. Arrivano. Sì, devono solo decidere loro chi arriva prima e chi arriva e non amichevolmente, questo no, mai. Non credo proprio. Mai. Senti, restiamo ancora brevemente in Inghilterra per la fine del sogno di Ancelotti, che comunque mi pare si sia consumata con molta dignità, in ogni caso. Non c'è dubbio, anche perché lui ha rivitalizzato nella parte finale una stagione che rischiava addirittura di diventare disastrosa. Il rapporto ormai è finito con il Chelsea, con Abramovic, per motivi che poi in realtà non è nemmeno chiaro quali fossero. Devo dire che lui è riuscito ad alimentare questa rimonta con grande bravura, ha fatto la scelta giusta, io credo, cioè quella di affidarsi a Drogba e non a Torres dal primo minuto. Lascia in eredità un problema, ma non penso che l'abbia creato lui, e cioè il fatto di avere questi due giocatori che probabilmente faranno comunque sempre fatica a dialogare, e lascia in eredità un giocatore come Fernando Torres, che è costato un occhio della testa e che evidentemente, anche perché si è già abbondantemente deprezzato, non può essere ceduto, e io credo che Ancelotti sia il candidato numero uno per la panchina del Real Madrid quando non ci sarà più José Mourinho. Ora, quando non ci sarà più José Mourinho, io questo non lo so, credo che l'anno prossimo ci sarà ancora lui, però prima di pensare ad Ancelotti sulla panchina della Roma, io credo che lo vedremo fare un giro a Madrid o comunque in quei dintorni. Ho la sensazione anch'io, per certe voci che ho raccolto dalla Spagna. Più tardi ci sentiremo, Fabio, in via privata, perché qua arrivano dei consigli su dove far merenda nei dintorni di dove sei adesso, no? E non mi sembrerebbe corretto fare pubblicità dei locali, che sono comunque molto molto gentili, ma non uno solo, e che comunque ringrazio, oltre al piacere di sapere che tante persone, insomma, anche in quel posto benedetto da Dio stanno ascoltando. Poi ovviamente la storia della maglietta sta sta avendo successo. Marina da Milano suggerisce quella maglietta di darla in beneficenza oppure di addirittura restituirla al galantuomo che gliel'ha autografata. E, mentre invece Sergio da Milano scrive: io ho da regalare una maglietta che è quella di Leonardo Rossonero, per par condicio lo dica, eccolo detto. Rientriamo in tema, Fabio. Io chiuderei con Taiwo, si chiama quello, l'esterno sinistro, sì, del Marsiglia, sì. Allora, sì, è appena diventato un giocatore del Milan per la prossima stagione insieme a Mexès. E volevo così che ce lo descrivessi sinteticamente come genere di calciatore, poi io te lo descrivo come personaggio con una curiosità che ha scovato sempre Piantanide. Sì, forse è quella del Coretto dopo, sì, la perdita col Paris Saint Germain. È quella, così. Vedo che la trovo preparato. Sì. Così a naso. Ma Taiwo ha un discreto armadio, nel senso che è un giocatore molto, molto forte fisicamente. Arriva in scadenza di contratto, così come Mexès. E quindi il Milan, da questo punto di vista, dimostra di saper spendere senza spendere. Ossia, spendere significa dare degli ingaggi importanti, e non spendere significa andare a prendere giocatori che non rinnovano con le loro squadre. Lo fa con Mexès, lo fa con Taiwo, l'ha fatto anche con altri giocatori nella scorsa stagione. Quindi da un punto di vista della gestione societaria ottimo, perché non carica tutto su un bilancio, ma lo può spalmare e può essere più appetibile non solo come nome di Milan, ma anche perché può garantire uno stipendio più alto a giocatori che magari così tanti soldi non se li aspettavano. È un giocatore esterno sinistro, è un giocatore molto bravo ad andare nella profondità, è un giocatore che ha bisogno di spazio e non so quanto ne troverà nel campionato italiano, però è un giocatore del quale il Milan aveva bisogno, perché da quella parte diciamo che Antonini per un certo senso, Zambrotta per un altro, non garantiscono a livello, credo, di tenuta, a livello altissimo, certo, di Champions League. Non è che Taiwo abbia un'esperienza internazionale e un palmarès tale, però diciamo che è uno che può darti delle munizioni ed è uno che ci può stare, tranquillamente ci può stare. Poi va un po' gestito a livello di personaggio, sì, però credo anche che il Milan sia il posto giusto per migliorare da questo punto di vista. Sì, l'affinità elettiva con Gattuso più recente indubbiamente c'è. Lui ha festeggiato, come accennavi prima, la vittoria della Coppa di Francia ottenuta a Saint-Denis, e cioè a Parigi, con un suo gol, no? Contro il Montpellier in finale, sì, facendo una rima che in francese viene, in italiano no, ma insomma tradotto in maniera un po' più soft, i marsigliesi salgono a Parigi per diciamo pure sodomizzare, però è sì, leggermente, sì, è un termine biblico, è biblico, si può, esatto, usare. Il PSG, e cioè il Paris Saint Germain, la rivalità più forte che c'è in Francia, lo ricordo, è quella tra Paris Saint Germain e Marsiglia. Allora, chiudiamo davvero adesso, ti leggo un tuo conterraneo, cioè bresciano, Antonio Morandini, che ci ha mandato, a proposito di una recente discussione che avevamo fatto qui, ma non discussione, di una recente, le dimensioni esatte dei principali campi d'Europa. Allora, Bernabeu 105x68, Nou Camp 105x68, Olimpico di Roma 105x68, Old Trafford di Manchester 105x68, Allianz Arena Monaco di Baviera 105x69, Berlino 106x67. Direi che di cosa parliamo? Questa è l'uniformità. A proposito di, a Barcellona si gioca in un modo perché il campo è più largo, dall'altro è più stretto, eccetera. Queste sono le dimensioni dei campi, grazie a questo ascoltatore bresciano, grazie a Fabio Tavelli. Grazie Gigi, l'unica differenza è la pettinatura dell'erba, su quella... Non c'è uniformità, ma va bene. La pettinatura e il make-up anche dell'erba, perché certo, se poi, certo, esatto, c'è chi mette il gel, c'è chi mette, esatto, la lacca. All'Olimpico di Roma non dimentichiamo che c'è stata appena una diatriba, sì, non da poco, per chi era Scully, che a momenti di rest, sì, che ha avuto, esatto, probabilmente, esatto, un malore a causa, sì, di da vernice di erba. In Inghilterra accade meno, in Germania pure. Buon pomeriggio e buona gita nel Chianti. Grazie a tutti, ciao Gigi. Noi torniamo a sentirci tra poco dopo gli aggiornamenti dei mercati. Vi ricordo che da domani anche questo programma, come gran parte dei programmi di Radio 24, andrà da domani a lunedì, andranno in onda in diretta dal Salone del Libro di Torino, il che significa che chi di voi ha intenzione di visitare il Salone del Libro nei prossimi 5 giorni, da giovedì a lunedì, dal 12 al 16 di questo mese di maggio, può può anche partecipare, può anche visitare lo stand di Radio 24 e partecipare ai programmi in diretta che andranno in onda da lì, dal Lingotto di Torino. Jean-Claude Blanc, leggo da un'agenzia, che però avete già sentito al giornale radio, amministratore delegato della Juve, ha rimesso le deleghe per l'appunto da amministratore delegato e ha rassegnato le dimissioni da direttore generale. Il nuovo AD della Juventus si chiama Aldo Mazzia, che è un ex consigliere. Il CDA ha attribuito a Blanc un incarico speciale per lo stadio in costruzione a Torino fino al 30 settembre del 2011. Diciamo che l'avventura del manager francese in casa bianconera è praticamente finita. Questo non significa che i conti stiano andando in maniera particolarmente positiva, perché nello stesso CDA si evince che il risultato progressivo negativo della chiusura dei conti al 31 marzo è di 43,4 milioni di euro contro un saldo positivo di 14,7 dell'analogo periodo dell'esercizio precedente. Ha chiamato Paolo da Lecco, buongiorno. Buongiorno, grazie. Appunto io mi collego a quello che ha appena detto. Lei pensa che Real e Barcellona potranno continuare, diciamo così, a vincere come fanno oggi anche con il fair play finanziario, e se squadre italiane come esempio la Juve potranno con il nuovo stadio e con i contratti innovativi che sta facendo potranno invece magari pensare di tornare su, insomma, come squadre, insomma, ecco. Il nuovo stadio è certamente un elemento positivo, i contratti non mi ricordo come li ha definiti, ma insomma questi contratti modello secondo me lasciano, se parliamo di valori tecnici, credo che lasceranno il tempo che trovano. Il gap da colmare rispetto alle due big del calcio spagnolo è notevolissimo, anche perché stiamo parlando di società, soprattutto il Barcellona più del Real da questo punto di vista, che i giocatori sanno costruirseli in casa. Questa secondo me è la vera differenza, cioè supponiamo che domani, io non auguro al calcio europeo in un certo senso un giro di vite ferreo e credo che così non sarà, perché Marco Bellinazzo del Sole ci ha spiegato tante volte ormai quanto sia progressiva questa entrata in vigore del fair play finanziario e quanto queste regole tengano comunque, abbiano comunque un minimo di lassità, no? e di ragionevolezza. Ma se per caso invece tutto dovesse essere di una improvvisa ed estrema severità, beh, io credo che col vivaio, con la masia, come la chiamano loro, che hanno a Barcellona, potrebbero andare avanti bene ad alto livello più di tante altre società. Ecco, questo penso, poi sono sempre teorie, è il campo che dice, ma il campo attualmente sta dicendo che Barcellona e Real sono un po' lontane dalle nostre, e che in prospettiva anche Milan e Inter faranno un tantinello fatica per risalire a quel livello. La Juventus certamente parecchia di più. Vi ricordo che anche domani dal Salone, comunque, in cui alterneremo gli interventi in diretta tra i presenti al Salone del Libro stesso e invece voi che ci ascoltate insomma, dalle vostre case, dalle vostre auto, anche domani il numero per intervenire in diretta sarà sempre lo stesso, cioè l'800 24 00 24. Lo ha fatto Angelo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, volevo dire due cose molto veloci. Sì. Prima ho sentito Allegri che ha parlato e mi sono messo un po' a ridere, no? Scusi il termine. No, non è che ha dato merito all'altra squadra che ha giocato bene. Ha ancora di detto che è stato sfortunato il Milan, ha sbagliato a fare i cambi, una cosa di qua, una cosa di là. Beh, ha detto delle cose completamente diverse, però se lei le ha capite così va bene. Sì, però non ha dato merito all'altra squadra. Beh, insomma, noi Angelo, noi di una lunga conferenza stampa noi cogliamo dei frammenti, no? E mandiamo in onda quei frammenti, mandiamo in onda le frasi che ci paiono abbastanza significative. Io ho ascoltato ieri sera l'intera intervista di Allegri in cui ha riconosciuto oggettivamente i meriti del Palermo. Dopodiché io credo che infliggere tutte le conferenze stampa per avere la completezza dell'informazione all'indomani sarebbe un po' eccessivo, però le posso garantire che insomma, che così non è andata, insomma. Poi è chiaro che un allenatore guarda, soprattutto un allenatore corretto, guarda per cominciare, guarda in casa propria e quindi risponde alle domande che riguardano la sua squadra più che non l'altra. Ma questo fa parte assolutamente della professione di allenatore, ma anche delle regole, direi, di comunicazione. La vigilia di Montella, allenatore della Roma, a proposito di questa sfida di stasera con l'Inter. Ma noi ci proviamo, naturalmente è una partita difficile, visto anche le assenze che abbiamo, gli infortuni che abbiamo, che manca Mekses, manca Brighi, ci manca Totti, ci manca Taddei, che è un giocatore, come ho detto prima, che ti dà grandissimi equilibri. Quindi è una partita difficile, ma noi ci proviamo perché abbiamo secondo me i mezzi per poterci provare e lo faremo fino in fondo. Questo era Montella. Un altro argomento caldino in questi giorni, sì, un po' caldino è già un eufemismo, è quello di De Laurentiis e Mazzarri, che insomma sono, mi pare proprio di poter dire che sono ai ferri corti, cortissimi. E allora sentiamo questo round di De Laurentiis. I contratti sono contratti, signori. E secondo l'antico diritto romano, anche i contratti verbali erano dei patti formalmente raggiunti. Qui addirittura sono scritti, eppure pesanti, ammazza quante pagine, di cui voi giornalisti mi rimproverate, dice, ma Presidente, ma che fa sti contratti? Ma solo lei? Ma non ha paura che qualcuno non venga più? E non fateli venire più, andassero a rovinare qualche altra città e qualche altra società. Una delle tante performance, no, direi, del presidente del Napoli. Maurizio, in linea da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo analizzare la partita ieri sera del Milan. Sì. Allora, io spero che Pirlo vada via dal Milan, perché oltre ad essere un ingrato, è un giocatore finito. Ingrato? Ingrato, sì, perché l'ho visto talmente svogliato, talmente dai festeggiamenti dello scudetto. Lui quest'anno è stato stipendiato e non ha mai giocato. È stato a lungo infortunato, Maurizio, può capitare, sa, che uno quando è infortunato non giochi. Vabbè, intanto non so se lei ha visto ieri sera, certo, la partita, e io le dico che ieri sera era da buttarlo fuori. Non Seedorf da buttare fuori, ma da buttare Pirlo. Ha sbagliato dei passaggi allucinanti. Mi piacciono questi verbi alla Gattuso, per cui un giocatore non va sostituito ma buttato fuori. Mi piace in modo particolare il suo linguaggio, lo trovo per l'appunto significativo dei tempi. E allora mi viene da leggervi, come molti ascoltatori mi hanno sollecitato, la maca di oggi di Michele Serra, che scrive: cantare in coro con i tifosi Leonardo uomo di merda, come ha fatto uno degli uomini simboli del Milan e del calcio italiano, fa parte dei festeggiamenti di uno scudetto? Il calcio italiano ne sta discutendo con la consueta ipocrisia. Galliani ha definito quel coro una ragazzata, e comunque senza grandi possibilità di venirne a capo, avendo già disceso di parecchi gradini la scala della decenza. La confusione e collusione tra curve ultra e calciatori è uno dei fenomeni degenerativi più gravi, e in fondo somiglia molto alla confusione e collusione tra eletti ed elettori. Se fior di ministri usano lo stesso frasario di un ubriaco al bar e un calciatore intona gli stessi cori della teppa fanatica, vuol dire che il concetto stesso di classe dirigente è andato a farsi benedire. I calciatori che vanno a esultare solo sotto le curve, come se non pagassero il biglietto e non gioissero con loro anche gli altri settori dello stadio, sono pari ai demagoghi che ci governano. Non si sentono depositari di alcuna esemplarità, di alcun vincolo di stile e sportività. Vivono per l'applauso della loro tribù e finiscono per somigliare ai peggiori buzzurri che funestano gli stadi. Si sa che diventare ricchi non equivale a diventare signori, ma la possibilità ci sarebbe, perfino per Gattuso. Basterebbe sentire come parlava e come si portava circa 100 secoli fa un milanista molto più importante di lui, Gianni Rivera. Intervallo per gli ultimi aggiornamenti dalle strade. Ricordi al suo ascoltatore, mi suggerisce Cristian da Carpi, la palla che Pirlo ha messo sui piedi di Robinho, già, perché quella con cui ha pescato Ibrahimovic sull'azione del doppio palo, chi l'ha messa quella palla da 50-60 metri? Però cioè, io credo che ci siano occasioni in cui sprecare del fiato e occasioni invece in cui provare a risparmiarlo. C'è un'altra lettura che poi introdurrà il capitolo Giro d'Italia a cui terrei una lettura più breve, giusto per così, per orientamento, ed è nel supplemento di Repubblica di oggi, è un articolo splendido di Gianni Mura sulla fatica dei ciclisti, sulla vita da ciclista. Adesso ascolterei Adriano che ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buonasera. Dica. Volevo, sul mio intervento, volevo dire una cosa, il fatto che dal mio punto di vista, no, dietro a una squadra forte sta sempre un management più forte. Cosa vuole dire questa? Quello che vediamo a Barcellona, il fatto che a Barcellona da sempre si vede, quasi sempre si vede a Barcellona che è un gioco diverso di calcio, è un spettacolo proprio. E poi quello che si vede, no, proprio il fatto che la parte del calcio, come si fa i gol e tutte le cose, tutto quel bel gioco, e anche sì, la bellezza di portare in porta il pallone. Sì, i passaggi, i giochi. Sì, Adriano, senza esagerare, perché ogni tanto il Barcellona esagera col voler entrare in porta con la palla e per il momento se lo può ancora permettere, non sempre, ma quasi sempre. Io ho l'impressione che in prospettiva dovrebbe, visto che poi gli anni passano per tutti, dovrebbe cominciare a pensare a un pochino meno di estetica e un po' più di concretezza. Parlo degli ultimi 20-25 metri, fino a lì il loro modo di giocare è assolutamente sopraffino. Sentiamo cosa ci ha preparato per questo 11 maggio Nicola Filippone. Sembra ieri. 11 maggio 1930. A Budapest la nazionale italiana si aggiudica la prima edizione della Coppa Internazionale, il primo trofeo della leggendaria gestione Pozzo. I maestri ungheresi vengono surclassati davanti ai propri sostenitori con un umiliante 5-0 nel segno di Peppino Meazza, che non ha ancora 20 anni ma già si esprime da campione assoluto. Il centravanti dell'Ambrosiana segna le prime 3 reti. Poi vanno in gol 2 preziosi gregari che vivono il loro meritato momento di gloria. La mezzala del Livorno Mario Magnozzi e Raffaele Costantino, ala del Bari, che milita nel campionato di Serie B. Beh, questa è una chicca in piena regola, ma ce ne sono un altro paio di giornate. Vabbè, una non è una chicca anche perché è molto recente, però sono 10 anni esatti, 11 maggio 2001, dalla sera in cui il Milan rifilò 6 gol all'Inter, il 6-0 in quel derby che passò un pochino come la notte di Comandini, no? Una cometa di quella sera, poi insomma, scomparsa, eclissatasi ben presto. L'altro è l'11 maggio del 1947, quando il grande Torino stabilì il record assoluto di presenze in maglia azzurra in una stessa partita con 10 giocatori su 11. La partita fu giocata a Torino, per l'appunto, finì 3-2 per l'Italia con 2 gol di Gabetto e 1 di Loic. Segnò anche Puskas su rigore per l'Inghilterra. Il Torino partì con 10 giocatori e curiosamente l'unico giocatore non del grande Torino in campo fu Sentimenti IV, portiere della Juventus, quando in molte altre partite di quel periodo il titolare era Bacigalupo. Quindi può darsi, io questo non lo posso sapere, che Bacigalupo quel giorno fosse infortunato, se no il record di 10 su 11 sarebbe in realtà stato addirittura di 11 su 11. Cristian domanda: ma non è sembra di un altro pianeta Van Bommel che è espulso, esce dal campo senza dire nulla? Beh, di un altro pianeta no, però certamente un gran signore in campo sì, perché se teniamo conto appunto di tutte le proteste gratuite, di tutti i tentativi di condizionamento all'arbitro, e non parlo di ieri sera ne sono successi pochi, che noi vediamo normalmente sui campi, e vediamo invece un signore che ha provato a spingere senza farsi in maniera non troppo plateale l'avversario lanciato a rete, ma in realtà l'han beccato con non molta difficoltà. Lui sa benissimo che ha fatto fallo da ultimo uomo, nemmeno guarda l'arbitro, completa la curva e si dirige direttamente fuori. È un'altra educazione sportiva che noi non abbiamo, forse mai avuto, ma che comunque stiamo perdendo in misura sempre crescente. Io credo che non siamo lontani dall'appuntamento con la rubrica del Giro d'Italia. Allora volevo leggervi questo articolo che vi ho citato su Repubblica di oggi di Gianni Mura. Volevo leggervi qualche riga all'inizio e qualche riga alla fine. Comincia così: i poveri sono matti, diceva Zavattini, anche i ciclisti, vorrei aggiungere, non fuori di testa, ma con quel briciolo di pazzia che li porta a scegliere uno sport di estrema fatica, di molti rischi, di guadagni relativamente bassi. Una volta era normale, quasi automatico, la bici serviva binda per continuare a fare lo stuccatore, a coppi per sottrarsi alla zappa da usare sui costoni argillosi di Castellania, eccetera. Il finale, invece, ho visto Merckx, dopo tantissime altre cose da leggere che vi consiglio davvero, ho visto Merckx e altri 80 corridori dormire nel liceo di Luchon su brandine stese nei corridoi, 6 docce e 6 WC per tutti, prendere o lasciare. Prendere, se non prendi non sei un ciclista, in più l'organizzatore ti sbatte a casa perché non si può rifiutare l'alloggio assegnato. E allora perché oggi uno non sceglie il tennis, il golf, la pallavolo? Per passione, rispondono i ciclisti. Passione ha la stessa radice di patire, e patire è un po' morire. Questo non spiega tutto, ma molte cose sì. Farei partire la sigla. Voci dal Giro. Un ritratto di questa quinta tappa, insomma, che dovrebbe essere, ma a quanto insomma, alle notizie che arrivano dalla corsa, è il ritorno alla normalità del Giro dopo il dramma vissuto nella discesa del Passo del Bocco e continuato giustamente con il lutto dell'intera giornata di ieri. Dicevo che in questa quinta tappa di ritorno alla normalità, questa quinta ce la descrive Michele Scarponi della Lampre e ci parla in particolare dei 19 km di sterrato nel finale verso Orvieto. Vi ricordo che Scarponi è uno dei favoriti per la vittoria finale. Oggi in particolare c'è una tappa molto insidiosa, lo sterrato sicuramente la renderà ancora più particolare, più con magari degli imprevisti da cercare di evitare, di superare al meglio. E poi l'arrivo d'Orvieto mi sembra molto, molto difficile, quindi è una tappa molto, molto insidiosa e i corridori di classifica in particolare dovranno stare attenti. Oddio, correremo per non, io perlomeno per stare con gli occhi aperti, perché la discesa con lo sterrato non è che sia proprio semplice. Sullo sterrato, perché nella parte in salita sarebbe meglio salire seduti, perché comunque se, alzandosi sui pedali si perde peso sulla ruota posteriore e la ruota rischia di slittare, quindi sarebbe opportuno pedalare col peso sul sellino per dare più aderenza. E nella parte della discesa l'ideale è di non fare delle frenate brusche, perché comunque sulla ghiaia e sullo sterrato la bici frenando sicuramente non tiene e vai a terra. Si sarebbe a frenare gradualmente, ma non sarà facile neanche per noi oggi, quindi per chi non va in bici consiglio l'asfalto. Voci dal Giro. C'è giusto il tempo di ricordarvi a questo punto che da domani a lunedì saremo in diretta dal Salone del Libro di Torino, e poi di ringraziare Filippo Aureggi che ha curato oggi la regia e Franco Piantanida che era con me in redazione. Buon pomeriggio.